Giallo e Nero di Daniele Piacchessi. Macchine, treni, navi, aerei, a piedi lungo sentieri di montagna, tra vecchi cascinali sparsi nei boschi e frontiere che dividono nazioni e continenti. I latitanti della lotta armata di sinistra compiono lunghi viaggi per raggiungere mete lontane. Le autorità di polizia giudiziaria e i servizi di sicurezza italiani ricercano oggi alcune decine di latitanti del terrorismo di sinistra. Solo pochi sono stati condannati in via definitiva per omicidi e ferimenti. Gli altri restano accusati dai tribunali di aver partecipato a un'associazione sovversiva e ad una banda armata. La maggioranza di loro risiede in Francia. Per le strade di Parigi camminano liberi volti noti e meno conosciuti degli anni di piombo, ricercati dallo Stato italiano. Ci sono Giovanni Alimonti, Enrico Villimburgo, Enzo Calvitti, Roberta Cappelli, Maurizio Di Marzio, Carla Vendetti, della colonna romana delle Brigate Rosse, Partito Comunista Combattente, Simonetta Giorgeri, Gino Giunti e Guido Minonne, della colonna toscana delle BR, Vincenzo Spanò, dei Comunisti Organizzati per la Liberazione Proletaria, Massimo Canfora, Walter Grecchi, Rossella Moneta, di Autonomia Operaia. All'ombra della Torre Eiffel si muovono ancora oggi Marina Petrella delle Brigate Rosse, Partito Guerriglia, Giovanni Vegliacasa, Francesco Nuzzolo, Luigi Bergamin di Prima Linea, Giancarlo Santilli dei Nuclei Comunisti Territoriali, Gianfranco Pancino e Gianni Mainardi della rivista milanese Rosso, Andrea Morelli dei Comitati Comunisti Rivoluzionari. Il più famoso dei latitanti della lotta armata di sinistra, residente per anni in Francia, è stato arrestato il 18 marzo 2007 in Brasile, a Rio de Janeiro. Cesare Battisti era ricercato dal 2004, quando la Francia diede il via libera all'Italia alla sua estradizione. È ritenuto responsabile degli omicidi del gioielliere Pierluigi Torreggiani e del macellaio Lino Sabbadin, Milano e Santa Maria di Sala, 16 febbraio 1979, dell'agente della Digos Andrea Campagna, Milano, 19 aprile 1979, del maresciallo degli agenti di custodia Antonio Santoro, Udine, 6 giugno 1978. Sull'arresto di Cesare Battisti, Raffaella Calanda ha intervistato il direttore della Polizia e Prevenzione, Carlo De Stefano. Quando nel 2004 Cesare Battisti si rese latitante per l'ennesima volta in Francia, incominciammo un'intensa attività di indagine con la polizia francese, ma solo nell'estate scorsa abbiamo avuto qualche segnale che ci faceva capire che potesse essersi rifugiato in Brasile. E quindi nell'autunno abbiamo inviato il nostro personale che ha avviato un'attività di indagine con la polizia brasiliana che si è conclusa felicemente. Cosa lo ha tradito? Evidentemente la necessità di soldi, perché l'appuntamento che aveva con una persona, con una donna, era finalizzato proprio a ricevere del denaro. Avete ricostruito questi suoi 3 anni di latitanza, cioè da quando sarebbe arrivato, sarebbe stato in Francia e poi in Brasile? Presumiamo che lui era in Brasile da almeno un anno, forse anche qualcosa in più, comunque insomma da almeno un anno, e quindi nel periodo precedente può darsi che lui sia rimasto in Francia. Oppure si è portato all'estero e poi è ritornato in Francia, insomma, ecco, questo poi cercheremo di ricostruirlo adesso con le indagini che facciamo e anche in base a quello che ci dirà lui, sperando che collaborerà. Avete qualche ipotesi sul perché in Brasile? A quanto pare lui non aveva parenti o amici lì sul posto, quindi probabilmente ha scelto questo paese grande per sottrarsi a ogni cattura, e quindi sperava di confondersi nella città grande. Invece insomma le indagini

progettavano attentati e la loro organizzazione andava diffondendosi, allargandosi, e per certi profili è come se avessero studiato gli inizi delle vecchie BR, delle BR storiche. Di nuovo l'asse Milano-Torino-Veneto, di nuovo un giornale, Aurora, che fa da supporto, da propaganda, nel periodo delle BR storiche. Il giornale si chiamava prima Sinistra Proletaria, poi Nuova Resistenza e alla fine soprattutto Controinformazione. Di nuovo il tentativo di infilarsi nei centri sociali oggi, negli anni 70-80 si chiamavano Collettivo di Borgo Manero, Collettivo Politico La Comune dell'Odigiano, di nuovo le armi interrate nel giardino di casa, di nuovo la rinunzia da parte di qualcuno all'università per fare lavoro, virgolette, politico. Di nuovo la pazienza metodica nel proselitismo, mentre le Brigate Rosse di D'Antona e Biagi cominciano, per così dire, scusatemi questo linguaggio, può sembrare persino cinico, massimo rispetto naturalmente per le vittime, ci mancherebbe, cominciano dalla fine, cioè uccidendo, questi che sono stati per fortuna fermati, cercavano di ricominciare, stavano ricominciando dalla base, cioè proselitismo nell'università, in fabbrica, nel movimento in generale. Per certi profili sono un mix, come dire, di Brigate Rosse e di Prima Linea, perché questa loro voglia di essere presenti nel movimento è caratteristica soprattutto di Prima Linea. Le Brigate Rosse storiche erano più clandestine, catacombali, più gerarchicamente organizzate con gli schemi della piramide e via seguitando. Però, attenzione, è come se qualcosa ci riportasse indietro di tanti anni, all'inizio degli anni 70, ma è una foto, come dire, sfocata, sbiadita, non una caricatura come qualcuno ha sostenuto, piuttosto il ritratto di qualcosa che non c'è, perché le analisi dei neobrigatisti sono analisi con le quali essi si intestardiscono a vedere quello che fa loro comodo, negano tutto ciò che per gli altri, comunque la pensino, è assolutamente evidente. È come se fossero, come dire, prigionieri di illusioni infantili, incapaci di capire la complessità dei problemi, delle vicende umane, incapaci di fare tesoro anche dell'esperienza dei vecchi brigatisti, se mai la conoscono nel dettaglio, non soltanto per sentito dire. 10 anni di lotta armata dei vecchi brigatisti non hanno portato a niente, al fallimento delle Brigate Rosse, e semmai facendo violenza a noi stessi per un attimo volessimo ragionare come presumibilmente ragionavano i brigatisti, se avevano determinati obiettivi di progresso, mi vergogno ad operare questa parola quando poi la realtà è di uso sistematico della violenza politica, uccidendo delle persone sconosciute soltanto perché elette a simboli da abbattere. Ecco, ma se avevano degli obiettivi di trasformazione, di cambiamento, magari anche di progresso, questi obiettivi sono falliti tutti. Semmai c'è stato il grosso rischio, e in certi momenti si è persino concretamente realizzato, di rallentare processi di emancipazione del nostro paese, di tornare indietro, di pregiudicare diritti, garanzie, libertà dei cittadini tutti, di determinare un progressivo imbarbarimento, un'involuzione in senso reazionario, autoritario del sistema. Tutto questo non è accaduto perché, per fortuna, il nostro è un paese che ha tanti problemi, la nostra democrazia non è sicuramente perfetta, ma è pur sempre una democrazia, e usando le armi della democrazia, anche usando le armi della democrazia, naturalmente senza nulla togliere all'opera dei carabinieri, dei poliziotti, eccetera, si è riusciti ad isolare in progresso di tempo politicamente i terroristi e quindi a salvare quella democrazia che i terroristi volevano distruggere. Ci fu un tempo in cui arrivarono i giorni bui, quelli del labirinto, e poi quei giorni si dileguarono e il buio scomparve per sempre. Ci fu un tempo in cui i giovani ribelli con le armi attaccarono lo Stato e colpirono a morte i loro nemici. Poi tornarono nel nulla, proprio da dove erano venuti. sovversivi e poliziotti, i nemici dell'ordine costituito e i difensori delle regole, quelli che attentano le nostre proprietà, le nostre vite e quelli che ci difendono. Posta così, la lotta armata di sinistra sarebbe chiusa ormai da parecchio. Sarebbe riduttivo spiegare così oltre un terzo di secolo di storia contemporanea. Forse oggi manca solo quel pezzo di verità che i latitanti della lotta armata di sinistra ancora non intendono del tutto raccontare. Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline, dbiacchessi@radio24.it.